che non ho saputo uscire là, presto scoppierà. Lascerei le risposte che non ti ho dato per vedere il tuo cuore stringersi fino a chiudersi. Ma troppe volte ho sopportato e mi sembra già un castigo. Lasciami andare per favore, che voglio donarti un'emozione, un cuore di marmo senza vele, schiavo segnato dalle tue catene. Io vorrei molto spesso la luce del sole, che mi acceca il dolore se non ci sei, e io scapperei. Ma ora credo già di essere un po' stanco dei tuoi occhi che trafiggono una realtà che non accadrà. Sopportato e mi sembra già un castigo. Lasciami andare per favore, che voglio donarti un'emozione, un cuore di marmo senza vele, schiavo segnato dalle tue catene. Mi la lì.